fossi io. Viene lento divagar una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi è una trasmissione dedicata agli animali metropolitani, come sono diventato io, nato in campagna, vissuto in campagna, cresciuto in campagna, poi urbanizzato e quindi diventato un prodotto della città. Il vivere metropolitano è il miglior orizzonte che abbiamo a disposizione. Ogni giorno noi guardiamo la città, facciamo parte della città e sappiamo che questa città noi l'abiteremo fino a che non diventeremo anche noi un rifiuto, una merce di scarto. Saremo portati via, come oggi vediamo nei cassonetti, il residuo del nostro ciclo organico in tanti cassonetti di colore diverso, portato via in maniera differenziata che possa essere riutilizzato. Noi non saremo più riutilizzati. Voi pensate questa sia una visione apocalittica, ma la città ha questa meraviglia di essere ovunque, laddove noi animali metropolitani riconosciamo la città. Tutte le città hanno una loro anima, ma tutte le città si assomigliano, tutte le città hanno delle costanti, ormai tutte le città si stanno assomigliando. Questo è un discorso terrificante, un discorso che toglie umanità al nostro vivere. Questa in fondo è la vertigine della nostra contemporaneità. La città ci conserva lasciando appiccicato il nostro ricordo sul suo volto mutante. La città muta continuamente, cambia continuamente. Il bello della città è che noi andiamo a ricercare pallidi ricordi recenti e diamo senso alla nostra esistenza proprio perché ci ricordiamo banalissime vie, strade, negozi che aprono e negozi che chiudono. E questo in fondo dimostra che oggi l'essere umano sta cominciando a considerare sia in maniera terrificante sia in maniera piacevolmente nostalgica le dimensioni dell'ambiente che vive, che è la città. Le ricerche più recenti in campo demografico e urbanistico dimostrano che nel 2030 quasi 5 miliardi di persone vivranno nelle aree urbane. 5 miliardi di persone vivranno nelle aree urbane. Con punte di crescita fino all'80% nei paesi non sviluppati o in via di sviluppo. Secondo i dati del United Nations Population Fund, State of the World Population 2007, in Africa e Asia la popolazione urbana raddoppierà tra il 2010 e il 2030 e la concentrazione di persone in aree così ristrette comporterà un'analoga e parallela concentrazione di risorse, beni, merci, servizi, flussi. In una parola, gran parte dell'economia graviterà intorno alle città del futuro. Questa mattina c'è una notizia sui giornali italiani, una notizia che non colpisce solamente noi abitanti della città di Roma, ma dovrebbe essere una sorta di idea che percorre tutto l'immaginario nazionale. È stato bruciato in un incendio doloso il bar Necci al Pigneto. Non dirà nulla probabilmente a chi abita ad altre latitudini, ma è il bar di Accattone. È il bar dove Pasolini fece il suo primo film, il bar dove faceva il casting dei suoi ragazzi, il bar che un poeta, attento osservatore di questo fenomeno dell'inurbamento, aveva scelto come luogo profetico di quello che sarebbe diventata una città. Infatti il Pigneto, che allora era un quartiere marginale dove si conservavano ancora alcuni barlumi di umanità, alcuni tranche ancora di quella sorta di umanità rurale, pre-civilizzazione urbana, a loro volta contaminati, distrutti, lacerati da quello che era l'impellere di una nazione che andava velocemente verso un progresso che significava mutare le proprie città, cambiare volto le proprie città. Il Pigneto oggi è un quartiere strafighetto dove vanno tutti i residui del radical chic romano a ricostruirsi la casa, a creare dei circoli, a fare dei sexy shop fighetti per signore, a creare scuole di tango. Insomma, è diventato un quartiere molto alla moda, ma in realtà questo era un quartiere popolare. In realtà l'incendio doloso di questo bar, che era il luogo simbolico dei film di Pasolini, rappresenta un piccolo lutto nella nostra memoria. Quindi la nostra memoria di essere inurbati e di essere cittadini è fortemente condizionata da piccoli transeunti eventi legati al mutare delle nostre città. Io volevo riferire la frase di una contadina abruzzese, che dice così, lo dico in dialetto: oggi fare i contadini è un peccato a morirsi, è un peccato morire, nel senso che ora è diverso sicuramente, ma è bello. Penso che sia molto più bello farsi svegliare da un'urgenza di un ulivo che deve essere raccolto piuttosto che da un cartellino da timbrare. Perché quando ad esempio prendiamo un mezzo pubblico e poi calpestiamo i piedi di qualcuno che ci sta vicino, ci prostriamo in scuse amicamente di varia natura, e invece tra un'auto e un'auto, quindi a 2 millimetri di lamina di spessore, ci si manda a fanculo con una facilità incredibile. Mi permette di suggerirle di raccogliere informazioni su chi utilizza veicoli tipo camper, roulotte, queste cose qua, per andare a scoprire o almeno a illudersi di scoprire degli ambienti, dei mondi che non è capace di vivere se non andandoli a pizzicare, a osservare. Era un ragazzo tranquillo, di buoni modi, poi però quando saliva in macchina era una furia, cominciava a imprecare in dialetto pugliese, andava, correva, non rispettava la precedenza, non neanche uno stop, era terribile, terribile. Rispetto a quello che vi ho detto sul bar ristorante Necci, ultima reliquia di una contaminazione fra città e campagna, fra spirito rurale e spirito urbano, scomparso, bruciato, e quindi lo sentiamo quasi come una piccola ferita nel nostro immaginario, è questo tipo di atteggiamento che abbiamo registrato in precedenti puntate in cui parlammo di città e campagna. La nostalgia per una vita irenica legata ai ritmi della natura che non esiste più, e il senso di raccapriccio per questi veleni cittadini che sembrano mutare, aver mutato così profondamente la nostra esistenza. Ma forse non ci rendiamo conto che quei veleni in realtà è la musica celestiale su cui si organizza la nostra esistenza. Gli animali mutati, e come i topi che si abituano comunque a mangiare di tutto, a qualsiasi tipo di alimentazione, qualsiasi tipo di habitat, noi topi umani siamo perfettamente e meravigliosamente abituati ormai a vivere nel mutare sconnesso delle città. E Pasolini proprio negli anni 70, nel 73, fece una serie di documentari dove, girando assieme a Ninetto Davoli, che era uno delle fonti ispiratrici comunque di questa sua poetica del mutare delle abitudini attraverso il mutare delle città, girava e mostrava dal punto di vista urbanistico quella che era la radicale prova delle sue teorie. E va davanti alla città di Orte, città meravigliosa, medievale, città, prima città dell'Umbria, dopo il Lazio, una meravigliosa cittadina su una collina completamente circondata dalle sue mura di cinta, quindi quasi un gioiello si staglia in mezzo al verde della campagna. Ma lui, poi allargando lo zoom della sua cinepresa, dimostra come in realtà il morbo della città aveva colpito anche quel centro che sembrava intoccabile. Io ho scelto una città, la città di Orte, cioè praticamente ho scelto come tema la forma di una città, il profilo di una città. Io ho fatto un'inquadratura che prima faceva vedere soltanto la città di Orte nella sua perfezione stilistica, cioè come forma perfetta, assoluta. Ma se è panoramico da sinistra a destra, infatti la città, da questo punto di vista all'estrema destra, finisce con uno stupendo acquedotto su quel terreno bruno. E immediatamente attaccate all'acquedotto ci sono altre case moderne, dall'aspetto non dico orribile, ma estremamente mediocre, povero, senza fantasia, senza invenzione, insomma, case popolari, che sono assolutamente necessarie, non dico di no, ma che lì sono un altro elemento disturbatore della perfezione della forma della città di Orte, come la casa che abbiamo visto prima. Sono osservazioni che sembrano appartenere soltanto a una classe anagrafica piuttosto avanzata. Ah, una volta qui era tutta campagna, una volta qui c'era questo vicolo, qua c'era questa osteria. Guardando libri fotografici delle città anche soltanto 30-40 anni fa si hanno dei tuffi al cuore. Io vedo quello che era Piazza Mazzini del dopoguerra, ma quello che era ancora prima, agli inizi del Novecento, quello che era ancora prima, quando soltanto erano dei campi scuola per le truppe, al di là del Tevere non c'era altro che delle grandi piazze d'armi, e poi è cresciuta pian piano la città. Quindi lo stratificarsi comunque della volontà dell'uomo di lasciare dei segni, di aggregarsi o di razionalizzare i propri spazi abitativi muta la città. Ma ancora di più, dico, secondo una frenesia totalmente personale, non so da quanti condivisa, guardando anche semplicemente le mappe di Google che mostrano le foto della città di un anno fa, due anni fa, già vedo le mutanti caratteristiche dei luoghi che conosco benissimo. Quella strada ha cambiato senso, quella casa è cambiata, quel posto non c'è più, quell'albero è stato cambiato, è stato tagliato e cambia. La città muta continuamente e il nostro ricordo appiccicato alla città insegue, e in questo si tiene vitale, e questi brandelli. 800 24 00 24, anche a voi vivere in città fa questa impressione. Rimangono i monumenti, ma non è dei monumenti che si tratta, non sono quelli il problema, quelli è facile salvarli, è l'intera forma della città che è difficile salvare. Dunque questo è un problema che si pone in tutti i paesi del mondo. Ora, quelle case che ti ho citato prima, quelle case popolari, che cosa vengono a turbare? Vengono a turbare soprattutto il rapporto fra la forma della città e la natura. Ora, il problema della forma della città e il problema della salvezza della natura che circonda la città sono un problema unico. Per quel che riguarda invece in generale la situazione dell'Italia, delle forme delle città nella nazione italiana, la situazione invece è decisamente irrimediabile e catastrofica. Per farvi capire quanto poi le sensazioni sono svincolate da quelli che sono i vincoli geografici, quelle che sono le scritture ufficiali dei territori, la solita maestrina dalla penna rossa mi scrive: Orte in provincia di Viterbo, non è in Umbria. Non capisce niente questa persona. Attraverso una sorta di geografia sottile, che è basata da linee sotterranee, che sono confini non determinati dalle carte geografiche, ma determinate dalle sensazioni, è per l'Umbro l'avamposto dell'uscita dall'area della capitale e dell'entrata nella propria regione. Quando si esce dal casello autostradale di Orte si comincia a entrare in qualcosa che è familiare. Tutti gli umbri lo sanno, quindi Orte appartiene a una dimensione dello spirito, a una geografia interiore che riconosce il passaggio deciso da una idea metropolitana che è legata appunto al vivere a Roma, all'essere inurbati e a ritornare lentamente verso la propria città. Questa strada per cui camminiamo con questo selciato sconnesso e antico non è niente, non è quasi niente, è un'umile cosa. Non si può nemmeno confrontare con certe opere d'arte, d'autore, stupende della tradizione italiana. Eppure io penso che questa stradina da niente, così umile, sia da difendere con lo stesso accanimento, con la stessa buona volontà, con lo stesso rigore con cui si difende un'opera d'arte di un grande autore. Che in realtà nessuno si batterebbe con rigore, con rabbia per difendere questa cosa. E io ho scelto invece proprio di difendere questo. Voglio difendere qualcosa che non è sanzionato, che non è codificato, che nessuno difende, che è opera, diciamo così, del popolo, di un'intera storia, dell'intera storia del popolo di una città. Ma nessuno si rende conto che invece quello che va difeso è proprio questo anonimo, questo passato anonimo, questo passato senza nome, questo passato popolare. In questi giorni si sta tenendo a Roma un summit internazionale, si chiama Ecopolis, sulle città. Noi abbiamo, visto che l'argomento ci appassionava, chiamato qualcuno dei relatori a questo convegno e lo portiamo sul territorio probabilmente eterodosso rispetto alle giornate di studio e di impegno di questo convegno, sul quale invece noi ci piace soffermarci. Professor Domenico Cecchini, buongiorno. Buongiorno. Domenico Cecchini è un urbanista presso la Facoltà di Ingegneria a Roma, è stato anche assessore alle politiche del territorio del Comune di Roma dal 1993 al 2001. Trova folle questo nostro attaccamento, questa nostra nostalgia contemporanea per il mutare delle città. Più le città mutano e più danno vivacità e esistenza al nostro ricordo. Ma direi tutt'altro che folle. Voglio anche ringraziarla perché non conoscevo quelle frasi, quel discorso di Pasolini, un grande uomo, di fronte ad Orte, e direi che una delle cose di cui si discuterà in questo in questa fiera, convegni e così via in questi giorni, Ecopolis, è proprio questo, il rapporto con la natura. Lui dice, Pasolini, una cosa che mi è sembrata bellissima, e cioè è vera, e cioè il rapporto con la natura è tutt'uno con il destino della città. Ecco, questo voi avete aperto, ho sentito poco fa, con dei dati che fanno impressione, cioè oggi più della metà del genere umano vive in città o aree urbane. Al 2030 saranno molti di più, e addirittura le Nazioni Unite si spingono a stimare la popolazione urbana nel 2050, che è abbastanza vicino, fra 40 anni, quando i giovani di oggi saranno ancora presenti a quell'evento, sarà il 70% della popolazione mondiale. Poi le faccio una domanda, professor Cecchini. Noi sono un po' di giorni che facciamo le trasmissioni sul mutare del senso e la cognizione del termine natura rispetto al nostro corpo. Il nostro corpo viene sempre più facilmente innestato con parti artificiali, quindi stiamo riscrivendo la nostra sensazione, ciò che sia naturale e innaturale. Quindi la natura non è più questo concetto sacro, inviolabile, basato su parametri eterni. Anche riguardo all'habitat in cui viviamo, il senso della natura forse non è più tanto legato, perlomeno in queste generazioni che nasceranno già inurbate, non so, al giardinetto, agli alberelli. La natura comincia a diventare anche il cemento della città? Sì, io non credo che sia esattamente così. Le faccio degli esempi concreti, guardi. Io credo che la natura, come l'altro dalla città, esisterà sempre. Bisogna vedere che rapporto si ha con questo altro. Le faccio degli esempi concreti. Scusi, devo spegnere. Scusi un attimo. Sì, ma questa è un'interruzione che è abbastanza consueta in ognuno di noi, un telefono che suona. Le faccio degli esempi. La città della grande crescita, quella di fronte alla quale Pasolini si stupiva e si doleva del fatto che stesse soffocando tutto. Beh, lui ha vissuto il momento di confine, lui ha vissuto proprio un momento di confine in cui l'Italia presente esplosa nel bene o nel male, anzi molto più nell'aspetto orrifico delle grandi periferie, delle speculazioni edilizie, è cresciuta a dismisura. Lui allargava la sua cinepresa e vedeva che i centri storici erano aggrediti da questa sorta di lebbra cancerosa dell'inurbamento, della speculazione edilizia. Esattamente, però noi oggi abbiamo noi dobbiamo ritrovare i tesori nascosti dalla città della grande espansione. La grande espansione, come voi dicevate, sarà ancora in Asia, in Africa, nei prossimi 2, 3, 4 decenni, ma poi finirà. Nelle ricerche che abbiamo fatto in questi ultimi anni abbiamo visitato diverse città in Italia e in Europa. Le faccio un esempio. A Torino, la città fordista, cioè la città della grande espansione, aveva sepolto sotto un grande solettone di cemento armato un lunghissimo tratto urbano della Dora, dell'affluente del Po. Ora in interventi che si stanno facendo, addirittura la ferrovia che attraversa Torino verrà spostata sotto il percorso della Dora, la Dora riprenderà luce, cioè verrà riportata allo scoperto, e chi ha realizzato il parco dell'ambiente lungo la Dora ha scoperto che si potevano utilizzare dei canali seppelliti da quel solettone per fare una piccola centrale idroelettrica che risolve l'80% del fabbisogno elettrico di questo Envy Park, il parco dell'ambiente, che è una sorta di parco tecnologico e ambientale realizzato con coperture verdi e così via. Ed è solo un esempio, ma pensi lei a città italiane come Palermo, Bari, Trieste, Genova, straordinario, la riconquista, diciamo, la ritrovare il lungomare. I lungomari delle città italiane erano stati sepolti anche da sopraelevate, pensi alla sopraelevata di Genova che purtroppo è ancora sì, là, sì. Ma sono stati tutti, le ho citato casi. Sì, ma per quanto, professore, per quanto noi possiamo tentare di fare dei recuperi, sarà sempre qualcosa di diverso rispetto alla classica memoria, al classico ricordo di un lungomare, di una città, certo, di uno spazio verde. E questo insistevo che trovo una mutazione estetica nel valutare ciò che è natura nella città. Ma importa, se le previsioni sono quelle che dicevamo all'inizio, la nostalgia non ci salverà. l'anostasia non ci potrà salvare. Noi dobbiamo con una certa forza e determinazione riprendere in mano, sa, le città le fa l'uomo e quindi le può anche cambiare. Quello che io voglio dire è, come dicevamo quando impostavamo i piani per Roma e così via, la metropoli moderna deve fare pace con la natura. La metropoli fordista ha invaso e soffocato la natura. Oggi è possibile, io credo invece, stabilire un nuovo patto con la natura. Che guardi, io sono convinto, nonostante le immagini alla Blade Runner, ma anche in una popolazione mondiale urbanizzata, le città non copriranno l'intero globo. Sì, grazie a Dio ancora di spazio libero ce n'è tanto, perché noi di spazio libero ce n'è tanto. Uno prende l'autostrada, si allontana 20-30 km da una città, da una metropoli, si accorge, cioè, voglia ancora, però crescono molto velocemente. E però è anche vero quello che dice lei, che in fondo è possibile avere degli spazi di recupero. È sulla possibilità che questi spazi di recupero non appartengano sempre ai discorsi utopistici, alle belle campagne elettorali che fanno molte volte i politici. Tutte le campagne elettorali, sia amministrative sia politiche, sono basate sul recupero degli spazi verdi, sulla qualità della vita. Poi in realtà ci si rende conto che in realtà la qualità della vita è sempre meno importante, sempre meno centrale per gli amministratori, e quindi noi che siamo come i topi, abbiamo già detto, ci ricostruiamo una nostra utopica qualità della vita facendoci sembrare bello quello che in realtà oggettivamente è sempre sembrato orribile. Melog 2.0. Il centro commerciale oggi diventa, per i bambini, la cultura condivisa, le cose che si condividono e che i genitori stanno passando ai figli. E questo è un aspetto squallidissimo. Io adoro i centri commerciali, ma mi piace frequentarli da grande per vedere chi c'è dentro e come sono stati organizzati. Se queste persone che stanno dentro il centro commerciale vi vivono e lo ritengono come un loro extramondo, figliano, fanno figli e a loro volta li portano qua dentro, che tipo di specie umana si sta andando a configurare? Volevo proporre una similitudine fra i centri commerciali e le enormi navi da crociera. E io non sono un frequentatore di centri commerciali, anzi ho 40 anni, ci sono andati forse due volte nella mia vita. Sono veramente qualcosa che raggira il cliente, perché entri là per comprare mezzo filone ed esci fuori col cestino del pane, l'ombrellone e la sdraio. 800240024, stiamo parlando questa mattina della città, dell'urbanistica, ma ne stiamo parlando, ma la deriva è stata spontanea, non voluta, difficilmente ci poniamo idee preconcette quando facciamo un programma alla radio, e sta diventando la metafora delle trasmissioni che hanno preceduto in questi giorni questo argomento. Noi abbiamo parlato per due giorni della probabile riprogettazione del corpo umano. Noi stiamo pensando e definendo come obsoleto il concetto di natura, che finora ha creato una barriera inviolabile rispetto alle armonie, alle proporzioni, alle funzionalità del corpo umano, e stiamo pensando che può esistere la più fantasiosa delle risoluzioni per vivere meglio. Quindi come noi possiamo riprogettare il nostro corpo, la città, che è la grande metafora della madre che ci accoglie, è il ricettacolo dei nostri ricordi, è laddove noi appoggiamo giorno per giorno la nostra percezione di esistere, di rapportarci col mondo, anche lei sta ridefinendo e riposizionando il proprio concetto di natura. La natura abbandonata, reietta, vilipesa, divorata, cannibalizzata le città, in realtà ci si ripresenta attraverso forme e strutture nuove. Il centro commerciale, l'abbiamo parlato più volte, queste erano vostre impressioni rispetto a una trasmissione fatta sul centro commerciale, è qualcosa che dimostra la nostra volontà di ricostruire attraverso magari qualcosa che assomiglia a un parco a tema, una Disneyland, comunque dei luoghi di aggregazione che possano permettere ancora di ritrovarci in maniera umana. Ma questo concetto di umana, abbiamo già detto, è un concetto transeunte, mutevole. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Lei è un architetto? Sì, sono, anche se faccio altro, sono un architetto che quando mi sono laureato mi sono specializzato in progettazione dei servizi. E io devo essere volevo fare un intervento sul discorso della città intesa come cuore culturale. culturale, diciamo così, no? Come lei ha parlato di orte e quindi ha fatto la distinzione tra quella che è orte medievale e orte moderna. La faceva Pasolini negli anni 70, io ho riportato sì, quello che diceva. Pasolini, io non sono d'accordo con quello che dice Pasolini in molte delle sue opere. Però voglio dire una cosa, allora, noi abbiamo una percezione della città che è completamente distorta, secondo me. Se la vediamo sotto semplicemente quello che è una manifestazione sradicata dai suoi tempi. Allora, lo stesso cittadino che viveva a Orte, la parte medievale, diciamo, di Orte, era un cittadino che moriva di tifo perché condivideva i propri spazi con i propri escrementi. A livello urbano tutte le città medievali non sono dotate di fogne, quindi tutte le fogne erano a cielo aperto, e la percezione che un uomo tra virgolette moderno di oggi avrebbe avuto vivendo in quella città a quell'epoca sarebbe stata una cosa assolutamente terribile, perché non avrebbe visto niente di tutta quella poetica, diciamo così, che noi vogliamo andare a recuperare nei centri storici, no? Percependoli come qualche cosa di assolutamente magnifico. Ma la poetica, mi scusi Sergio, l'attribuisce no? Il fatto che appartenga al passato. A me mi sembra che questa mattina il mio sforzo, ma questa è una mia impressione, era quella di creare una sorta di nostalgia del presente. Io ho parlato in maniera nostalgica del baretto incendiato, che è qualcosa che ha una storia brevissima, va dagli anni 60 a oggi. La stratificazione della nostalgia su quel baretto è dato dal fatto che ci abbiamo visto girare alcuni film del neorealismo italiano, semplicemente qua. Quindi la mia nostalgia è molto legata al cercare di dare un senso profondo poetico a quello che stiamo vivendo. Io ho nostalgia dell'orrore delle città perché è il mio pane quotidiano. Le mutazioni minime che vedo attraverso le mappe di Google, che sono state magari messe in rete soltanto un anno fa, già a me mi dà un senso di nostalgia. Mi è sufficiente questo. Su questo io assolutamente condivido quello che dice, perché però secondo me esiste, diciamo così, una cosa, un aspetto secondo me della vita del cosiddetto uomo moderno su cui effettivamente noi dovremmo riflettere di più. Tutto questo cercare cose, diciamo così, che possano arricchire di forme, di colori, al limite anche nella stessa natura, voglio dire, no? Riconducono tutte quante a un aspetto fondamentale, secondo me, no? del vuoto che noi ci stiamo portando dentro, e che non esiste movimento culturale, movimento politico, movimento sociale di nessun tipo, movimento intellettuale, che in questo momento voglia in qualche modo affrontare. Cioè sono tutte manifestazioni di un vuoto interiore per il quale non c'è nessuno. È chiaro quello che dice Sergio. Le dirò come strana provocazione, intanto la saluto, che per me quel vuoto interiore è un traguardo, un punto d'arrivo, non è qualcosa da riempire, non ho l'oro vacui, anzi, amerei avere ancora più vuoto interiore per vivere più tranquillo, ma che le città debbano riempire i nostri vuoti interiori è una sua lecita presa di posizione. Professor Massimo Ilardi, buongiorno. Buongiorno. Professor Massimo Ilardi penso sia un altro degli relatori di questo convegno Ecopolis di cui si sta ragionando questi giorni a Roma, è un sociologo urbano, quindi mi interessa avere il suo parere su quello che stiamo sollevando noi, per amore del paradosso ma anche per personale convinzione, che in fondo acquisire una sorta di nostalgia per il presente delle città che stiamo vivendo ci permetterebbe di avere il fegato meno traumatizzato dal fatto che le promesse non corrispondono mai ad azioni concrete, e evitare quello che dice anche giustamente l'architetto, che in fondo questa nostalgia per le città medievali, cioè viveteci voi nel Medioevo tra la peste, i nemici che vi attentano e i topi di fogna. L'architetto ha ragione, vede, la città non è solo un fatto estetico. Diceva Max Weber, un grande teorico delle città, sociologo, che la città è un fatto rivoluzionario, cioè un fatto politico, è un fatto illegale, lui diceva, proprio perché supera e tradisce continuamente quello che era nel passato. La città industriale, lo ricordava prima l'architetto Cecchini, è stata ha tradito quello che erano le leggi, le regole di vita della città medievale. La città nasce sempre così, come fatto di superamento e di travalicamento di quello che erano le condizioni di vita dei borghi e delle cose che l'hanno preceduta. Quindi dobbiamo vederla anche da questo punto di vista, cioè come un fatto di grande rilevanza sociale, come un fatto di grande rilevanza politica. Ecco, su quello che dice lei, professor Ilardi, mi piace avere il conforto di un amico che chiamiamo spesso in questa trasmissione, che è Mario Abis, che è amministratore delegato della Macno, ma è anche docente di ricerche psicosociali sul consumatore e l'opinione pubblica alla IULM. Mario Abis, buongiorno. Mario? Buongiorno. Ecco, ti sentivo male. Mi senti? Sì. Come vedi, noi stiamo battendo su un tema su cui più volte ci siamo noi confrontati davanti a questi microfoni, che è quello della urbanistica intesa come una sorta di condizionatore forte anche di comportamenti sociali. Vedo che si sta lentamente allentando questo senso di irenica nostalgia per i luoghi che furono. Come ci stiamo abituando comunque a rendere accettabili, anzi a conformare le mutazioni della nostra struttura fisica e mentale alle mutazioni delle città? Intanto spero che tu mi senta. Sì, sì, benissimo, benissimo. Innanzitutto c'è una trasformazione sociale in atto che si lega, io purtroppo non ho sentito la trasmissione, non vorrei toccare argomenti che non sono stati, magari sono stati già toccati, però il punto importante rispetto a quello che sollevavi tu come tema riguarda le trasformazioni delle città essenzialmente in aree metropolitane, no? Questa è la trasformazione sociale più importante negli ultimi anni. Sappiamo che le modifiche su cui si sono innescati dei processi, che sono processi assolutamente globali, riguardano essenzialmente la trasformazione dei territori metropolitani in territori allargati, poi lasciamo perdere come vengono definite città infinite, città policentriche e quant'altro, questo non ci interessa, però questo ci interessa semplicemente rispetto alla modifica della struttura sociale, nel senso che sono cambiate radicalmente dinamiche sociali, uso del tempo, mobilità e quant'altro, e queste modifiche sono modifiche profonde che riguardano l'organizzazione sociale, gli stili di vita, gli stili di consumo, i modelli di uso del tempo libero e quant'altro. Indietro si torna. Secondo te, Mario, è auspicabile pensare si possa tornare indietro ormai da questa sorta di nuova struttura dei nostri usi, dei nostri consumi? No, io penso che questa sia assolutamente, adesso uno può leggere questa trasformazione delle mappe sociali e urbanistiche come vuole, però questi sono processi assolutamente immodificabili, almeno per quello che posso vedere io in un tempo pensabile. Pensiamo solamente al fatto che lo stesso quadro competitivo internazionale è sempre più sviluppato dei rapporti, dei conflitti fra le aree metropolitane prima ancora che i paesi e gli stati-nazione, sempre più per intenderci rispetto a quello che sta avvenendo. Allora, queste trasformazioni che saranno sempre più forti, sempre più significative, basti solo un dato che è abbastanza anche ricorrente: in Italia oggi c'è quasi il 60% della popolazione che vive concentrata in 8 aree metropolitane, 58% per la precisione. Quindi ci troviamo di fronte a trasformazioni assolutamente violente del rapporto fra città e struttura sociale, nel senso che la natura e l'identità della società avviene in queste, essenzialmente fra le tante modifiche di contesto economico e sociale, ma avviene soprattutto in relazione alla trasformazione delle aree metropolitane. E questo significa che noi topi di città cominciamo a essere molti di più dei nostri cugini topi di campagna, e questo cambierà notevolmente anche l'assetto del genere umano. Melog 2.0 800240024, stiamo parlando delle mutazioni della città, delle mutazioni dei nostri consumi, dei nostri desideri, della nostra maniera di vivere. Ci eravamo interrotti con Mario Abis, amministratore delegato della Macno. Mario, stiamo parlando dell'irriversibilità di questo processo. La nostalgia per le belle città che furono mi sembra un concetto che non ci porterebbe più da nessuna parte. Ma io penso che, come sempre nelle società complesse, i fenomeni ci sono tanti concomitanti. Un sistema di nostalgie per, diciamo, delle aree sociali di nicchia, delle elite che in qualche modo possono recuperare una dimensione legata alla tradizione, cioè un recupero di alcune città di provincia, per esempio in Italia, in questi ultimi anni, però sono tra i tanti fenomeni che riguardano il processo delle dinamiche delle città, sono dei fenomeni marginali, diciamo, laterali rispetto ai grandi, alle grandi tendenze di massa che riguardano le città. Il problema è come dovranno essere viste, rilette i rapporti con le città in questo quadro evolutivo delle aree metropolitane, quali saranno i luoghi che verranno in qualche modo selezionati dalle città. I luoghi, nuovi luoghi di aggregazione, abbiamo visto il fenomeno dei centri commerciali come uno dei quasi più interessanti di ridisegno, diciamo, delle relazioni sociali, luogo che è diventato organizzazione del tempo, uso del tempo libero, luogo di aggregazione sociale e quant'altro. Ne stanno costruendo uno, anzi l'hanno costruito da poco, proprio all'uscita di uno dei tanti caselli, uscendo da Roma, andando verso l'Umbria, che sembra un castello su una collina, è meraviglioso, con i merli, le torri, una dimensione fantastica. Sì, ho usato un punto, diciamo, sono delle città nelle città che vengono costituite all'interno delle dinamiche delle dinamiche sociali nelle aree metropolitane. Probabilmente gli stessi luoghi delle infrastrutture e dei trasporti diventeranno sempre più dei luoghi importanti di aggregazione e di relazioni sociali e così via. Quindi all'interno di questo grande processo è evidente che ci saranno anche fenomeni, diciamo, marginali, tendenziali, laterali, di recuperi, di nostalgie, di vocazioni possibili per pochi, però il fenomeno nella sua, diciamo, tendenza forte sarà essenzialmente questo. E il tema è essenzialmente, credo, di quello che è, si parla molto di sostenibilità, come si fa a costruire un'area metropolitana sostenibile, quali sono gli elementi fisici e immateriali che regolano la relazione tra cambiamento sociale e le grandi trasformazioni di massa nelle aree metropolitane nel quadro della sostenibilità. Ecco, professor Ilardi, sulla domanda che fa Abis sulla sostenibilità, mi scrive Francesca, un'ascoltatrice su Facebook, dice che le maestre di scuola dei suoi figli hanno già risolto il problema della nostalgia per i luoghi perduti, fanno delle costosissime gite scolastiche di un giorno nelle fattorie nei dintorni della sua città e quindi gli fanno vedere questa sorta di ricostruzione della fattoria di Nonna Papera. È questa la soluzione? Non è certamente questa la soluzione. Se la sostenibilità, la ricerca di sostenibilità volge sempre lo sguardo al passato, insomma, non trova soluzioni, cioè la sostenibilità si deve confrontare con le trasformazioni sociali del presente e questo è il nodo della sostenibilità. I sostenitori della sostenibilità purtroppo sono cantori di una città che non c'è più, sono cantori di spazi pubblici che non esistono più, sono cantori appunto di una città dove l'estetica da giudizi e primari su qualsiasi altro tipo di... Insomma, voglio dire, non è questo il modo per garantire... È un problema complesso, ma se comunque si deve misurare con la trasformazione del presente. Rendere sostenibile un centro commerciale, questo è un problema. Non portare i ragazzini a vedere la fattoria di Nonna Papera, che non esiste più. Grazie professore, quindi l'idea non sono i parchi a tema, l'idea non è la Disney, l'idea non è i musei del mondo perduto. Alessio, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti. No, io vorrei riagganciare questo discorso alla mistica della città, partendo da quello che lei ha detto all'inizio, cioè la natura in contatto con la città. Io trovo che invece la città sia come un grande animale che viaggia nel tempo, vive nel tempo e si trasforma, e il suo trasformarsi è anche bello. Perché poi io penso che la nostalgia per quello che lei chiamava il baretto, per esempio, io vivo a Trastevere, sono fiorentino ma vivo a Trastevere, e ci sono i baretti ancora, è legato alla nostra percezione personale, cioè lei probabilmente ha un suo baretto del cuore che è andato, adesso non l'ho capito, forse bruciato, e questo le provoca del dolore. No, non era il mio del cuore, era, diciamo, un immaginario comune degli italiani. Ecco, appunto, però è anche legato molto alle esperienze personali ed è una cicatrice che rimane, ma come in tutti gli animali che mutano la loro pelle, cioè la città diventa qualcosa, cambia ogni giorno. Ed è bello che sia così, perché cambia il suo volto e cambia anche il modo di affrontarla dal punto di vista proprio personale. Ma quello che ho detto all'inizio della trasmissione, i nostri ricordi si appiccicano su una sorta di organismo mutevole e quindi li vediamo a nostra volta contaminarsi. Proprio in chiusura di trasmissione provo a darvi almeno un assaggio, soltanto per ora, di un punto precedente rispetto a quello che stiamo vivendo, dell'aggressione dell'essere umano rispetto alle grandi metropoli. Alberto Salza, buongiorno. Buongiorno. Salza, lo conoscete, è un ospite già stato a questa trasmissione, un antropologo molto conoscitore profondo del mondo africano, ha appena fatto un libro per Sperling e Kupfer intitolato Niente, come si vive quando manca tutto. Ecco, la gran parte dell'umanità che noi non consideriamo, noi parliamo soltanto di noi esseri occidentali semibenestanti, inurbati, sta cominciando ad affrontare il problema delle persone che in masse enormi aggrediscono le città e vengono fuori poi quelli che sono gli slum, luoghi in cui la gente vive in condizioni che noi consideriamo inimmaginabili. Tu che l'hai visti da vicino, ci dai semplicemente un assaggio di quello che sta avvenendo verso le nostre città? Beh, è un mondo talmente fluido che è difficile definirlo, però possiamo vedere ad esempio una città come Nairobi, che è molto bella. Ebbene, lì oltre la metà della popolazione vive in questi agglomerati molto densi. Pensate che il 18% occupa il 75% della superficie e quindi tutti gli altri sono chiusi in piccolissime aree. Potrebbero fare il sindaco perché sono più della metà, ma non hanno una carta d'identità. Sì, io l'ho visto a Nairobi, vivono sull'immondizia praticamente. Vivono dentro, attraverso, su, con. Sono veramente situazioni... da un punto di vista estetico anche affascinanti per noi che possiamo permetterci di guardarle, però certamente di vita difficilissima. Ecco, queste persone, qual è il radicale passaggio che hanno avuto? Per loro la città è il luogo dei nostri rifiuti, che vivono, riciclano, mangiano, si alimentano, dormono, hanno tutta la loro attività di formiche sul nostro pattume. Ecco, per loro la città è quello o c'è qualcos'altro che dovrebbero raggiungere o sperano di poter raggiungere? Ma io ricordo una bambina che diceva una frase straordinaria, dice: tu che vieni da lontano e devi essere istruito, che cosa ci vedi in questo mondo che sembra la fine del mondo? Per cui hanno questa strana percezione di essere in fondo a un tunnel, al di là di un sifone, alla fine veramente di un universo. Quindi è chiaro che lì manca completamente la speranza, manca una visione del futuro, però la città non risponde alle loro esigenze, praticamente mai. È interessante capire come per la parte precipua dell'umanità quello che per noi è un paradiso è semplicemente l'anticamera alla fine del mondo. Ma questo argomento mi sembra degno di un maggior approfondimento. Ringrazio Alberto Salza e i nostri ospiti. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22.